italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Así que. Pacto viscum donna. Oggi iniziamo praticamente a metà trasmissione, 17-28 minuti, benvenuti anche per questa puntata delle Schiena del Sol, dagli 87.9 di questa piccola grande radio. Ci viene così abbastanza. Un sacco di roba oggi, non avete idea quanta. Parole musica dell'America Latina. Vi dico solo che siamo in 5 in studio, 4 e mezzo, io sono mezza. Tutti strumenti, tutte cose. Insomma, qualcuno che gira per la rete già lo sa quello che accadrà oggi, per gli altri invece una bellissima sorpresa. Allora, cominciamo però dal comincio, e quello che volevo fare oggi sicuramente è una cosa che insomma i musici qui con me concordano, è la celebrazione di queste lunghissime mani, delle dita che sembra ET, un sellerone di questi cubani alti alti secchi secchi che hanno fatto la storia del piano di Cuba, come minimo direi. Hanno, diciamo insomma, che Cuba ha anche il merito di far sì che la musica sia come la matematica, la scienza e la geografia, quindi è fondamentale nella vita di ognuno, e quindi a scuola non si studia il flauto aulos, triste triste, come nell'ora di musica nostra, ma si suonano i violini, i clarinetti, i pianoforti e chi più ne ha più ne metta. Diciamo anche che si balla a scuola a Cuba, qui invece non si balla manco quando si va a ballare, lo sapete, sono arrabbiatissima con voi per questo. Insomma, quello che dobbiamo fare è celebrare il medico Bebo Valdés, che in Svezia ieri, all'età tenera di 94 anni, ci ha lasciato stanco, dopo aver lasciato anche una grandissima tradizione familiare, un figlio altrettanto pianista, altrettanto bravo. E allora, come minimo, gli dobbiamo dedicare un pezzo, e allora da un bellissimo disco che ha fatto con Diego El Cigala, un quattone rispetto insomma all'umiltà del musicista Bebo Valdés, una perla insomma che fa sì che però tanta musica si mischi tra l'Andalusia, la musica gitana e Cuba. E allora ci sentiamo Corazon Loco per salutare questo veramente impareggiabile maestro del piano de Cuba, Bebo Valdés. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo se puede encarar dos mujeres a la vez. Uy, no estás loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con la voz. La radio que ha la capacità di far morire la gente due volte. Siamo meglio del Padre Eterno noi. Ora son loco. Una fe, el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor primido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encarar dos mujeres a la vez. Y no estar loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no está loco, no está loco, no está loco, ay, ay, ay, ay, y no está loco. Va bene, non faccio in tempo a pensare di fare una cosa sensata che me la spontano qua adesso. Se giochiamo il 13, il 16 e il 20, no, tutti i mesi, l'anno, vediamo chi c'ha ragione. Comunque va bene, l'importante è che voi continuate ad appassionarvi a questa musica, a questa trasmissione e soprattutto, come sapete, alla cumbia, giusto? Ah sì, è che stiamo, se certo. Allora, intanto io vi presento la voce di Angel, che è un po' la testa del Son de Cumbia, del Son de Barrio, che sono venuti oggi a trovarci qui in radio, e io parlo di te perché tu, diciamo, sei l'unico elemento fisso, nonché la mente di Son de Barrio. Sì, sempre tutto dipende dal posto dove io sto, sono i musicisti che lavorano qua con me. Adesso lavoro con questo ragazzo che ho trovato qua due anni fa. Quando sto al Messico lavoro con altri musicisti, però sempre sono la cabeza del progetto, sono il compositore e il creatore. Un po', esatto, quindi tu scrivi la musica, scrivi i testi. Certo. E poi li proponi, insomma, metti lo spartito e dici dai, suoniamo. Questa cosa è molto bella perché ti permette anche di portarti la tua musica in giro, ovunque vai, comunque la puoi suonare. Certo, e tutto questo è come una retroalimentazione con tutti i ragazzi, perché la vibrazione di cada uno degli elementi è molto importante, e è diversa dell'allineazione che ce l'ho al Messico, perché al Messico tutto sono messicani. Certo. Prima erano tutto argentini, cubani e messicani, e dopo era così per 2 o 3 anni, dopo erano tutti messicani, e sono 2 anni che sto qua, 3 anni che arrivo qua, e ho parlato con Quetzal, che è il percussionista e che fa anche il coro. Lui è un ragazzo che fa la musica al Messico da tanto tempo, e l'ho trovato qua, e lui mi ha fatto l'aiuto per trovare a tutti i musicisti. Adesso c'è questa allineazione, che è una bella allineazione. Senti, noi parliamo spesso di Messico qua, quindi intanto ti voglio chiedere da che parte del Messico vieni e perché la cumbia? Perché io so che tu comunque sei appassionato anche di molti altri generi, anche tu hai subito l'influenza del reggae, poi la cumbia sicuramente è un genere che si presta molto a essere mischiata, soprattutto col rap, col dub, con l'elettronica, cioè è molto poliedrica. Però allora ti voglio dire, dici da dove vieni e perché poi sei proprio cascato nella cumbia? Tutto questo è perché io sono della città di Monterrey, Nuovo León, dove è Celso Piña, dove sta tutto questo movimento della cumbia che arriva da Colombia. Io ho cominciato prima facendo hip hop, dopo reggae, fusioni di funk. Facendo cumbia sono 10 anni che sto facendo questo. Con il Son del Barrio sono 8. Dove io sono... tutte le persone che facevano cumbia quando erano piccoli, dopo hanno fatto il rap, hanno diventato MC. Io era prima al MC, contrario. Io ho diventato un po' più cumbia, anche il reggae l'ho fatto per tanto tempo. Adesso mi sento che, come si dice, mi sentire come un compromesso con questo genere, con la cumbia, come un portatore, una voce del barrio. Ti senti proprio quasi la responsabilità di portarlo. La responsabilità di portarlo e di farlo sapere con tutto il mondo, fare la connessione con diversi paesi, e che questo movimento si fa più grosso, no? Certo. Ho visto che qui in Italia c'è la cumbia, non si conosce poco. Grazie per questo spazio e per tanto tempo di dare a conoscere tutto questo. Manca molto lavoro. Alla Francia è più forte il movimento, la Germania, però qua per persone non come so, te. Non so, vi siete fatti battere dalla Francia e dalla Germania, non so se vi rendete conto. Guardate allo specchio un attimo. Per persone come te c'è questo spazio, e le persone italiane possono sapere che è lo che succede in altro rincone del mondo. Ma anche il fatto che tu poi in Italia, comunque quando sei in Europa, hai... coinvolge altri musici. Adesso io non so se per esempio voi due che siete italiani, qui abbiamo anche un basso e una tromba, conoscevate la cumbia prima, oppure se lui è stato quello che ha detto vabbè, suoniamo insieme, io faccio questo genere qua. Comunque è anche un modo di trasmetterla, no? Trovando dei musici che casomai sono venuti per la prima volta. Guarda, se vuoi quello tiralo su, rispondi, io mo vi metto in mezzo a tutti, che ve credete? Buonasera a tutti. Tu la conoscevi la cumbia prima? Sì, già la conoscevo, che comunque io sono un amante dei latini, della ecco. Musica latina. Quindi comunque c'era un'altra scusa, ecco, dietro. E comunque provengo da tutt'altro genere, comunque vengo dal jazz, okay. E quindi comunque l'apertura mentale del jazz aiuta molto nel conoscere altri generi. Certo. E tu la conoscevi la cumbia? Io la conoscevo sinceramente poco, immaginavo più reggaeton così, però anche io vengo da un genere molto diverso, faccio jazz degli anni 50, cool jazz, quello diciamo di Chet Baker, Miles Davis, però è una musica molto divertente e mi piace collaborare con loro. Infatti, quindi appunto, insomma, come dicevamo, poi tu hai anche influenzato loro, no? Quindi è una cosa molto bella questa. Poi io so che in Francia tu conosci cumbia buruca, che insomma sono passati di qui al volo, non hanno fatto in tempo a venire qua in radio, ma insomma per fortuna ci sono anche tanti gruppi piano piano in Europa si muovono per portarla, non solo quelli famosi che poi casomai è difficile certo. Farli arrivare a suonare. Senti, vogliamo, perché allora loro sono qui per suonare, però vogliamo far sentire questo pezzo registrato, poi facciamo un altro po' di chiacchiere. Benissimo. E cominciamo a suonare in studio, va bene? Che perfetto. Dici? Ok, allora ce lo vuoi presentare tu questo brano? Ok, questa canzone si chiama Cumbia Reggae Suena, è il primer single che sta in processo del mix. In lavorazione, e tutta la canzone l'ho fatto la produzione io con un arreglo di Marcelo Rivas, che è un signore bravissimo che fa la filarmonica al Messico con il Son del Barrio di Argentina. Questo signore ha fatto l'arreglo e questo sta in processo. 2 o 3 mesi sta. Allora poi devi tornare col disco, certo. Allora ci andiamo a sentire Cumbia Reggae Suena, Son del Barrio. Uy, uy, uy. Come vi dicevamo, come va? Brano in lavorazione, presto dobbiamo presentarlo sto disco qua, per forza. Senti, i testi come ti ispiri? Perché un conto è scrivere la musica, un conto è scrivere i testi. L'ispirazione è tutti i giorni, dove ando alla strada, vedere qualcosa, la vivenza, lo che si vive, tutto tutti i giorni. In realtà sono del barrio, siamo di schierda sempre, facciamo molto lirica di consenso. Ce l'abbiamo le canzoni che sono per festa, per fare che la donna bailano, per in realtà la lirica del son del barrio, original son del barrio, sempre è di protesta, è di conscienza, di fare. No, questo è molto bello perché appunto quest'anno poi il Messico è stato molto presente in questa radio, abbiamo ospitato qui la Caromanna nei 43 di Ayotzinapa. Sì, sì. Mi vengono i brividi a ripensarci perché è stato un momento importantissimo. Forte. Sì, soprattutto te lo dico proprio da europea, da occidentale, perché quello che si produce nelle macchinatore di Messico arriva qui. Certo. E quindi noi è inutile che facciamo i rivoluzionari se poi non siamo autocritici in quello che ci mangiamo, in quello che ci droghiamo e in quello che consumiamo. E io lo dico sempre, sempre, perché qui abbiamo molto da fare autocritica. Quindi insomma questa cosa mi piace molto, è un'altra affinità che ci troviamo. E poi so che insomma sei comparso sul palco del Forte a Enotica, che è stato un successone, insomma lì intanto mi hai detto che c'era un sacco di gente, che mi fa piacere perché vuol dire che piano piano la cumbia conquista Roma in maniera importante. E noi tutti gli anni appunto con un collettivo che si chiama Il Nodo Solidale, che fa parte di una rete di collettivi internazionale, facciamo un'iniziativa bellissima che si chiama La Sagra del Peperoncino Rebelde, per raccogliere soldi da poi portare per i progetti in Messico. E in due anni abbiamo visto, facciamo la gara di cumbia, che è molto così per giocare, però in due anni ho visto che comunque la cumbia fa la sua parte, insomma, comincia a piacere, addirittura cominciano a ballare. Quest'anno c'era una quantità di gente iscritta alla gara che era una cosa incredibile. Quindi insomma bisogna cominciare a creare una rete di cumbieri qua, certo, a Roma. Allora, che tu mi hai detto che hai questo libro, che questo disco in lavorazione, ma è come se già l'avessi fatto e già stai avanti, no? È come che, no, diciamo, quello è come un progetto che lo stai facendo, ma già stai là e stai avanti, già pensando, sì, ad sì, altro. Sì, sì, sono tre anni che stavo a fare la gravazione. Questo disco si è fatto in Italia, anche in Italia come in Messico. Io in questo momento non ce l'ho, però ce l'aveva un studio portatile. Tutta l'interfaccia, il microfono del condensador, tutto, faceva tutta la registrazione della mia canzone, chitarra, voce, dopo lo inviavo al Messico, il Messico mi grava nel bass, percussione, tutto. Pensa quanto te. In tre anni ho fatto tante gravazioni, però sta tutto in processo perché no ce l'ho sempre la musicista fisso. Ah, certo, col fatto sempre che cambiano perché loro sempre c'è nell'appuntamento, lui qui fanno jazz, anche Ketzel fa il jazz, rock altri latino, gruppi, sempre stare in giro, e lui sempre anda di giro per Europa, e non è facile trovare sempre la musicista fisso. Le musiciste che sono fisse con me sempre al Messico, certo. Per anche loro ce l'hanno l'altra serata per suonare. Adesso sempre sto io al frente perché come il cammino che ho fatto dal principio e le persone che stanno con me in questo momento, pues andiamo avanti, no? Ok, quindi insomma la produzione continua. È certo. Viaggiano più i file musicali di me, ma vi sembra giusto? Non lo so. E allora, vogliamo... Modici proprio adesso. Vogliamo cominciare a provare... che esce fuori, perché qui sì, abbiamo sì, acchittato addirittura con degli strumenti elettrici, vabbè, vediamo che esce fuori, ma secondo me si può fare, potenti mezzi di La Tonda Rossa. Qui non c'è niente po' di meno che un basso elettrico, una chitarra elettrica, come si chiama? Elettrica comunque, no, io una tromba, elettroacustica, una tromba e delle percussioni, e quindi voi dovete solo ballare. Che cosa proviamo a suonare adesso? Questa canzone si chiama Mamá Chango, è una delle prime canzioni del son del barrio. Canzone del son del barrio. Ok, allora io vi apro i microfoni e vediamo che succede. Y bueno, mi gente, esto se llama Mamá Chango original, son del barrio. Raga, 1, 2, 3, 4. Pachamama, reina Chango, ella venga pa' donde salía el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reina pa' Pachamama Changoa, oh, Pachamama reina Changoa, ella reina pa' donde salía el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reina pa' Pachamama Chango, Mama Changorito, Mama Changorito, Mama Changorito, Mama Changorito. Mi selva quieren robar, mi tierra quieren matar, y la selva lloró, y la selva lloró. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pachamama reina Changoa, ella reinaba donde salía el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reinaba Pachamama Changoa, oh, Pachamama reina Changoa, ella reinaba donde salía el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reinaba Pachamama Changoa, Mama Changorito, Mama Changorito, Mama Changorito, Mama Changorito. Mi selva quieren robar, mi tierra quieren matar, y la selva lloró, y la selva lloró. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mamá Changorito. Keep on walking and the road to Zion. We got to keep on burning and the road to Zion. Gracias. Non so se vi rendete conto di quello che siamo riusciti a fare. Spero di sì, perché è quasi un miracolo praticamente. Sì. Ok, allora io torno a mettere il microfono al suo posto, torniamo a chiudere i microfoni, qua sono tutte operazioni veramente impotenti, mezzi di Radio Onda Rossa. E allora, beh sì, indubbiamente anche questo testo la dice lunga su quello che succede in Messico. Noi ne parliamo spessissimo perché io poi è una terra che amo, è un po' la mia seconda casa, e che dopo un po' che ci penso poi mi viene il malumore, perché è tanto che non ci torno, ma c'ho un pezzo di cuore lì tipo da 15 anni, quindi ecco. E, sì, insomma, tu ce lo dici, ma poi uno sente la canzone e capisce tutto, no? Quello che tu mi dici, canti la tua terra, sei ischierdo. E, è una bella rapina quella che vi stanno facendo in Messico, eh? Sì, sì, sì. In questa canzone parla un pochetto della terra, di come il essere umano sta acabando con la natura. Sta terminando, sta facendo più palazzo, più concreto nella strada, no? Già non c'è la selva, questa canzone parla di questo. Sì, insomma, l'altra settimana qua parlavamo della... Insomma, quello che poi succede in Messico è un po' una fotocopia di quello che succede in altri paesi del Sud America, no? Là dove ancora sopravvivono culture antiche, che vivono di un rapporto con la natura dove niente si spreca, niente si butta. È un'armonia totale. E quindi quando si pensa che si fa una diga, oppure che si... non è un caso che poi uccidono gente come Berta Cáceres o i suoi amici. Non sono persone armate, sono una persona, ma quello che loro dicono smuove tanta di quella gente ed ha un significato così importante che mette paura, no? Certo. E questa è una lezione che noi prendiamo da voi, no? Quindi la dignità dei popoli indigeni nella lotta nel rapporto con l'ambiente è una cosa che qua probabilmente abbiamo molto perso. Noi abbiamo per esempio la Valsusa, non so se conosci la storia della Valsusa, dove si fa questo treno dell'alta velocità. Loro probabilmente sono la realtà italiana più forte di difesa del proprio territorio, perché loro vivono in montagna. Chi vive in montagna ha un rapporto con la montagna unico, perché la montagna non si scherza, insomma, non è un ambiente semplice. E quindi diciamo che è una lezione molto grande quella che prendiamo. Io poi ho avuto la fortuna pure di stare nelle comunità del Chiapas, dove ho preso delle lezioni incredibili in merito a questo, proprio una ricchezza che la mia laurea non vale niente a confronto, diciamo, ecco. Quindi capisco anche la necessità poi di voler portare questo fuori, perché credo che sia un'unicità che hanno i popoli messicani piuttosto che quelli peruviani e ecuadoregni nella difesa del loro ambiente, no? Certo. E quindi che ti dico, una domanda che ti voglio fare è: della cumbia, quali sono, diciamo, i tuoi gruppi di riferimento, se così si può dire? Mi immagino che tu abbia quelli messicani, no? Poi io dico sempre che la cumbia è girata per diversi paesi, dalla Colombia ha raggiunto il Messico, poi ha raggiunto il Perù con la ciccia, si è mischiata con la ciccia, e poi insomma, quindi ha le sue sonorità. Però quali sono un po' i tuoi diciamo musicisti di riferimento per quanto riguarda la cumbia? Pues en realidad el número uno siempre es Celso Piña, porque lo he sentido de que era piccolo, de Meldal, México. Colombia, sono più fan de Aniceto Molina, que ya no se está qua. Ormai. Un grande, un grande, un grande. Sí, poi l'accordeon, per esempio, è uno strumento che io lo vedo poi che quando molte persone, per esempio molti musicisti che adesso fanno la cumbia elettronica, per esempio, il refrain dell'accordeon arriva sempre, c'è sempre, non manca mai, è lo strumento che è sempre presente, no? La costante, sempre presente. Sì, sì, è l'alma della cumbia. Sì, sì, sì, è proprio una cosa, uno strumento pazzesco. E diciamo che poi appunto Celso Piña è un po' l'imperatore dell'accordeon. Chissà se un giorno riusciamo a farlo venire in questo stivale, magari. Dai, organizziamoci, dobbiamo riuscire. Quindi diciamo che sì, e soprattutto appunto, poi tu mi dicevi io faccio il reggae, faccio l'hip hop, io qua mi arrabbio sempre molto perché vedo queste prime generazioni di migranti sudamericani tutti in fissa con reggaeton, che addirittura sta molto conquistando il nostro paese. Allora, siccome io non sono mai polemica, mai, mai provocatrice, io credo che un genere così basso e così maschilista, in realtà non possa... lo hanno cambiato, perché prima si stava il dembow, questo che faceva Chava Ranks, che era un altro, era diverso, non era lo che certo. Si è diventato il reggaeton. Ci stanno artisti che fanno il dembow, che non è reggaeton, e fanno un altro come dancehall, no? Però tutto questo è diventato già è ridicolo. Diciamo che questo è puramente il lato commerciale. Il lato commerciale, tutte le persone che tu vedi a tele non sono persone che sono del barrio, sono persone che hanno trovato un manager, hanno incontrato, e sono prodotti plastici. No? Esatto, prodotti plastici. Poi probabilmente non sanno suonare, non sanno neanche che la musica, sì. Però muovono il cue e basta. E soprattutto, insomma, poi io vi aggiungo, ne abbiamo parlato qua, perché per esempio quest'anno abbiamo avuto anche l'anno scorso, è venuto un gruppo cileno che fa mi metto qua, il reggaeton transfemminista. E quindi loro hanno detto: ci sono momenti della mia vita in cui a me mi piace di fare il cane o la gaia, ma non sei te che decidi quando. Quindi hanno fatto una cosa bellissima, hanno fatto qui uno stage una cosa stupenda, in cui io che reggaeton proprio mi urta, mi dà fastidio, perché poi penso che è quel lato commerciale che uccide invece centinaia di anni di strumenti, intanto, perché poi la cumbia messicana degli strumenti, quella colombiana ne altre, a seconda che venga da non so, da dentro, dalla costa, ha le sue peculiarità, c'è sta la marimba piuttosto che l'accordeone, insomma. Quindi brasa, brucia, devasta invece non solo tanti generi di musica, ma anche tanti strumenti che sono il risultato invece di quando l'uomo è riuscito a mischiarsi senza paura, no? Per cui per esempio in Colombia c'è il risultato di musica che viene dalle popolazioni autoctone, gli spagnoli e gli africani, e chi ha avuto l'intelligenza di aprirsi ne ha fatto una ricchezza, quindi ne ha fatto della musica bellissima. Certo, no? C'è stato il caso di Mad Professor con il Frente Cumbiero, che Mad Professor Frente Cumbiero, i brividi, quel disco è pazzesco. Acaba di essere altro materiale, il Mad Professor hace un esatto, c'è Quantic, che era uno che Quantic faceva también, elettronica, che è arrivato in Colombia, ha preso una tramvata, ha messo insieme i musici, ha preso Anna Tichou, quelli giovani e quelli vecchi, ha fatto una cosa pazzesca, e lui era uno che fino al giorno prima, comunque sì, indubbiamente è un musicista a tutto tondo, però ecco, si occupa di elettronica, anche lui ha fatto una cosa pazzesca. Quindi voglio dire, tutto sta poi nel saper fare delle differenze una ricchezza, e i lati commerciali pensano a fare la gente spensierata, no? Probabilmente non ci sarà mai un reggaeton con un testo impegnato, chissà. Allora, noi è già mezz'oretta che parliamo, che cosa altro ci vuoi raccontare? Tu vai a ruota libera anche, cosa pensi? Non lo so, per esempio l'impatto qua con la cumbia, quando tu sei arrivato qua, che cosa, qual è stato? Hai detto vabbè, qua non la sentiranno mai. La prima volta che sono andato qua, en la fiesta de la música, un po' strano, he sonado solo yo, con mi computer, un controlador MIDI, el güiro, lanzando el instrumental. Fue un po' strano, he fatto un po' de cumbia digital, un po' de reggae, le persone mi guardavano, sentivano dopo andavano. Pero dopo he lavorato con un percussionista italiano, yo la guitarra, lui en la percusión. No me sentía più conectado, ¿no? Dopo ya he trovado, me ha llamado Cumbia Buruca de Francia, sabido que estaba yo qua, le mancaba un frontman y un guirista. Me han llamado, he hecho un giro con loro per la Europa, me han ayudado a conectarme con diversos postos, festivales y managers, agencias. Tocca sempre andare in Francia, voi notatele queste cose, perché sì, io ve odio per questo. Sì, e dopo ho conosciuto diverse persone, ho conosciuto più persone che fanno il reggae, perché io anche faccio il sound system al Messico, è sempre il reggae per tanti anni, e qui c'è una scena forte del sound system. Ho conosciuto diverse personaggi di qua che fanno questo. Ancora sto in pratiche per fare con diverse persone, fare un mix di quello che stiamo facendo noi. Beh, quindi insomma, te dai da fa anche qua ormai. Sì, sì, sì. E come te dicevo prima che stavamo a parlare, mi sento il compromesso di fare questo. Di farlo girare. Di farlo girare, di portare la gomma. Che più persone conoscono questo e che bailano, e sentano che conoscono la nostra raíz. Poi probabilmente. Esatto, il fatto che comunque la cumbia sia una musica così popolare. Fa sì che può prendere solo quella direzione, è difficile che ne prenda altre, insomma, quando la musica viene dal popolo la direzione che prende è quella, questo, non c'è certo. Niente da fare, certo, le cose che vengono dal basso, sempre al basso si riferiscono, no? Comunque non hanno chissà mille di potere, ma insomma hanno mille invece di coinvolgere, di acquisire comunità, di condividere, di mischiarsi, e questo credo che sia la ricchezza assoluta della musica, anche della cumbia in particolare. Poi sì, del reggae qui praticamente per 15 anni non abbiamo sentito altro, piaceva a tutti. Poi anche no, Alborossi comunque ha fatto una versione cumbia del Revolution, la canzone di Alborossi. Ah sì, esatto, Alborossi ha fatto la cumbia. Sì sì, adesso addirittura i cantanti famosi fanno le cumbie. L'altro giorno mi sono svegliata, c'era Giovanotti che ha fatto la cumbia. Si vede che sente questa radio. Anche Giovanotti sente la schiena del Salute troppo. Giovanotti, parte mi sembra. Comunque anche puoi continuare a fare quello che hai fatto, non ci mancherai per niente, ecco. Come dire che insomma comunque, anche perché io penso che la cumbia comunque anche grazie, io credo che una sensazione che ho avuto da qua è che comunque in Sud America ci sia adesso un'esplosione culturale dei giovani pazzesca, quindi anche riprendere la musica tradizionale e mischiarla, no? Penso che ne so, in Argentina l'Hijo de la Cumbia, che mette veramente un'elettronica pazzesca, però c'è sempre un refrain che viene da sì, tutto il referimento. Ci stanno questi bravissimi messicani, l'Istituto Messicano del Sonido. Sì. Camilo Lara, sì. Lui pure per me è un mezzo genio, perché comunque zitto zitto prende queste canzoncine e ne fa delle cose pazzesche. Quindi, e poi un altro personaggio che devi conoscere, qui te lo devo dire, si chiama El Pinche Perro, anche lui italianissimo, con un legame particolare proprio con la tua terra. E lui è un appassionato di scoma, ne compra dischi a mano, adesso mixa, fa, e secondo me lui sarà il nuovo eco della cumbia romano, perché perfetto, è proprio sì, poi gli piace anche coltivare questo lato afro dei vari paesi, quindi del Messico, della Colombia, il Caribe, quindi ha voglia qui a suonare, eh? Sono molto contenta perché finalmente mi sento meno sola, come sapete, perché per anni, questo è tipo quasi il quinto o sesto anno, ho perso il conto di questa trasmissione, all'inizio mi sentivo veramente sola, poi per fortuna i compagni di Spartaco che avevano la murga hanno cominciato anche loro a farsi contaminare dalla cumbia, quindi adesso lo Stresalto hanno fatto proprio un disco abbastanza cumbiero, anche loro scrivendo dei testi in italiano, e dopo adesso casomai dopo lo mettiamo, perché è particolare sentire la cumbia, anche a me mi fa impressione la cumbia suonata in italiano, però finalmente viva la faccia, perché appunto si crea un legame molto bello, credo, se è vero che siamo cugini insomma come latini, secondo me possiamo continuare, ecco, capito, perché poi mi fa impressione pensare che ballano più quelli di Berlino che quelli di Roma, va bene. Che fate? Ci suonate un altro pezzetto? Mettiamo una canzone registrata. Ok. Quale? Vediamo dove, tu cercala. Intanto io ricordo agli ascoltatori che sono le 18.02, che Profondo Rosa oggi non andrà in onda, quindi rischiate di stare in nostra compagnia ancora un bel pezzo, che tra un po' chiameremo comunque Aure e Marco per capire che succede. Questa mattina si sono presentati a mettere i sigilli alla, insomma, chi di voi conosce meglio il centro sociale Aure e Marco, oltre alla storica parte sotto dove abbiamo fatto tante dancehall appunto e tante serate. Ormai era stata occupata da tanto tempo una parte sopra dove c'era una biblioteca, una alla studio. Oggi Tronca, il prefetto di Roma, ha mandato i vigili a mettere i sigilli non solo alla parte sopra ma anche alla parte sotto. Questo coinvolge anche, come sapete, la storica occupazione delle compagne femministe l'una e le altre. Rischiamo di perdere un patrimonio pazzesco perché il prefetto carabiniere Tronca ha deciso che le occupazioni sono illegali. Mi piace pensare che le occupazioni sono un problema, visto il momento storico che stiamo passando. Caro Tronca, non hai niente di meglio da fare. Comunque, il presidio ha respinto per adesso la celere che si era presentata per dare una lezione, quindi dalle 16 era chiamato il presidio. Noi tra un pochino faremo una telefonata per capire che succede. Allora, io, anche tu, oddio che leggo qui, certi ricordi, presentaci sempre tu questo brano. Ok, questo pezzetto, questa canzone è quello che abbiamo fatto in live, però non si sente bene qua, adesso la sentiamo registrada. Questo è Mamá Chango, l'original son del barrio. get past one head. I'm the wrong to say on me. We got to get past burning. I'm the wrong to say on me. It's this war of calamity. There are locks and grows and jealousy. And police with a box and mentality. Make that close for your noble variety. Boom, boom. De hecho que es veterana que muerde de slow. Ragamuffin son del barrio México represento. Va toda mi gente alzando la voz. Seguimos rodando rumbo to Zion. We got to keep and walking on the road to Zion, man. We got to keep that burning on the road to Zion. It's a war of calamity. There will look some gross and jealousy. And police with a box of maturity. Made that close for your noble variety. Boom, boom. Let your guests better than a camel. Just a slow ragamuffin son del barrio México represento. Paso da mi gente alzando la voz. Seguimos amenando el round back to Zion. Got to keep and walking on the road to Zion, man. Go, go, go, go, go. Got to keep and burning on the road to Zion, man. Son del barrio. Salí el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reinaba Pachamama Chango, oh, Pachamama reina Chango, ella reinaba donde salí el sol, allá donde hay mucho calor, es donde reinaba Pachamama Chango, mamá changorito, mamá changorito, mamá changorito, mamá changorito, mi selva quieren robar, mi tierra quieren matar. Y la selva lloró, mar. Mi tierra quiere el macar y la selva lloró. Allora andatela a cercare nella rete, perché questi pezzi insomma si possono trovare. Ce lo vuoi dire anche te se li vogliono ascoltare l'indirizzo? Certo. Nos pueden cercar en YouTube, original Son del Barrio. Okay. Anche en Badcamp también estamos, anche nos pueden trovare, original Son del Barrio. En Rebernation.com / original Son del Barrio. Ecco, quindi insomma. E anche in YouTube, se non vogliono stare in contatto per YouTube, facebook.com / original Son del Barrio. Okay. Welcome to mi barrio. Cascateci, ve lo dico io, ve lo assicuro, vi faccio da garanzia. E poi, sì, indubbiamente, poi io qua dico sempre che se è vero che questa è la mia fissa, la cumbia, in questa fase, diciamo, della mia vita, secondo me la ricchezza poi è riuscire a amare un genere ma riuscire a godere anche degli altri. Io personalmente poi mi sento l'hardcore, allora non so, mi vengono in mente questi gruppi, per esempio non so, Anarchia Tropical, non so se li conosci, cileni, loro fanno questa cumbia folle molto anarchica e poi finisce nell'hardcore, e poi ci sono quegli altri che iniziano con la cumbia e poi finisce nel reggae, e poi ci sono quegli altri che iniziano la cumbia e poi finisce nell'hip hop, e poi ci sono quelli che mischiano la cumbia con l'elettronica. Quindi come vedete, avere una mente aperta in generale nella vita fa bene, senza perdere i propri principi, ma nella musica secondo me poi arricchisce molto, perché appunto come vedete qui ci sono jazzisti che suonano cumbia, ci sono cumbieri che si allargano al reggae, e te sei l'unico a cui non abbiamo fatto dire niente, però impicciati, prendi il microfono e usalo. Tu che radici c'hai, per esempio, in quanto altro messicano? Pues io sono nato in Chetumal, che è la capitale di Quintana Roo, e praticamente per Chetumal arriva il reggae di Giamaica, perché è una isola la faccia di là del Messico. Esattamente, la faccia di sotto, proprio la frontiera sud del Messico, e lì praticamente io sono cresciuto con tutta questa influenza reggae. Pure mio padre da molto piccolo mi portava i concerti, questi che tutti questi che stavano in un ambiente reggae, che fumavano, insomma, amore e pace, no? E poi lì, mano a mano, te come che lì entri sopra, no? Poi la cumbia alla fine è parte della nostra radice messicana, perché è come la musica popolare italiana, tipo sì, esatto, la tarantella o però o diciamo che forse questa, diciamo, forse da voi la musica è sempre presente. Sì, cioè, è vero, sacco, che da noi, per quanto sacco, le musiche che tu hai citato è vero che sono quelle che poi orgogliosamente si portano avanti, però da voi uno va al cesso e c'è la musica, va all'autobus e c'è la musica. Sì, c'è stato tutto. È una cosa pazzesca, cioè io mi ricordo queste radio attaccate sopra l'autista dell'autobus con le cassette e musica a manetta, cioè non c'è un posto dove non ci sia musica, non c'è una casa dove non si senta musica, questi condomini con le porte aperte, musica dappertutto. Quindi credo anche che la presenza musicale abbia un valore diverso un po', no, rispetto, certo, a qui, certo. Quindi la musica tradizionale tu ce l'hai perché l'hai imparata, come hai imparato la tua lingua e cucinare il tuo cibo, perché fa parte della tua quotidianità, no, certo. Quindi è un po' diverso. Poi sicuramente nel meridione nostro, appunto, le musiche originarie, io qua a Roma fondamentalmente poi o qualcuno da insegna la musica romana, oppure non è che se cresci vuoi anche non averla mai sentito, uno stornello, cioè puoi sentire Barcarolo una volta, ma insomma è il minimo. Però credo che ci sia proprio una differenza di considerazione della musica, no? De presenza nella quotidianità. Sì, è molto bello. È più parte di questo linguaggio, no? Quotidiano che si vive in Messico, anche per pubblicità, anche per la strada, insomma c'è per tutto, c'è per tutto. Io nel caso particolare sono nato in una favela, e poi mio padre, per allontanarmi del solvente, quelli che accostumbravano tutti i miei ragazzi della generazione a respirare la colla, sì, a respirare la colla o così, perché in questa epoca, in quel tempo si usava molto il machete e semenavano così, se picchiavano forte. Entonces mio padre ha detto: mettiamo a questo ragazzo ai tamburi, perché sennò questo diventa proprio il boss di qui del barrio. No, perché bisogna anche spiegare, sì, che il machete si può usare in due modi, di taglio e di piatto. Infatti, per cui, ecco, Meglio mi ha detto, sai che, prendi i tamburi, e era tanta questo bisogno di mio padre di avvicinarmi a un'attività così un po' più costruttiva, di darti un'altra passione, che le droghe o le altre cose, che anche sono costruttive, no? Si se usano bene, però, beh, forse però la cosa un po' meno, però in questo caso tipo la colla era troppo pesante per i ragazzi della generazione, e sai che mi ha fatto i tamburi a mano. Ah, proprio così te l'ha costruiti proprio, mi ha costruito la batteria, mi ha costruito tutto, e a un certo punto pure mi domandava, che te manca, figlio, no? Poi te lo faccio, ci penso io. Non ti preoccupare, ci penso, basta che ti allontani della colla o del thinner, no? Questi solventi che sono molto molto comuni, e per questa fortuna mi sono avvicinato alla musica, ai tamburi, poi ho cominciato a cantare, ho fatto un gruppo, ho suonato 10 anni, insomma. Poi mi sono sposato, alla fine trovi l'amore, questa ragazza bellissima italiana che... Eccola, è diventato, ecco, tutto rosso, che carino! Per cui tutto, come dirte, se lascia, no? Per queste trasformazioni, per questo amore. Ringraziamo la compagna che ha portato qua un cumbiero. Ecco, comunque, per questa famiglia grande, grazie Diana, un bacione, lì dove stai, a casa. E finalmente adesso mi encuentro in un bel agio, perché ho trovato per fortuna Angel, che è come caduto del cielo, per cui ha avuto una chimica così tanto forte, non lo so, può darsi il nostro sito dove abitiamo, perché noi abitiamo al Caraibi, lì a Tulum, Playa del Carmen, Cancun, nel mar, insomma, la vita è más bonita, esattamente quello, no? Per cui c'hai una visione più o meno simile. Ovviamente io ho il mio caratteraccio di merda e non odi a me, guarda. Sì, no, però alla fine già un po' parlando con la lingua e così già più o meno sai, no, che comunque stai più in sintonia, se sono trovato. Poi a me mi è piaciuto un sacco da che ho ascoltato la voce, questa melodia. Adesso mi manda un messaggio, che voce da paura. Fantastico, fantastico. Per cui vi ringrazio, grazie Andrea, grazie dottore, e questi musicisti fantastici. Bravissimo. che si trovano a Capena, la Repubblica di Capena. La Repubblica di Capena. E pues grazie a te per la invitazione, e a tutti gli ascoltatori, non scordate mai di lottare, ragazzi, perché è importante, o sea, è proprio un atteggiamento con la nostra vita, no? Ci stanno tante ingiustizie in questo mondo, ci stanno tante transnazionali, ci stanno tanta roba che sta volendo di rubare la nostra identità come esseri, ma invece ci stanno tante altre opzioni. E quelle altre opzioni bisogna spingere. La cumbia è la voce di quelli che non hanno la voce. Certo. Per cui non è un prodotto plastica, è un prodotto veramente così popolare, no? E con le nostre limitazioni, la mancanza dell'amplificatore o la mancanza di altri, lo facciamo ovunque, no? Perché ci piace, li portiamo così del cuore, no? Guarda, noi di questa piccola radio, che poi casomai ti racconto meglio, perché lui, ci siamo visti prima, gli ho potuto raccontare la storia di questa radio. Però questa è una radio che non ha un caporedattore, non ha nessuno che la finanzia, non fa pubblicità, ci ammazziamo di fatica per tenerla andare avanti, però questo ci garantisce la libertà. E noi diciamo di questa radio che qui parla chi non ha voce, esattamente quello che hai detto tu, perché, la voce dello sin boss. Esatto, perché i collettivi che vengono qua, le realtà che vengono qua, dicevo, lui, la carovana dei 43 Ayotzinapa che è venuta qua, sono venuti, li abbiamo accolti, hanno fatto una charla all'università, abbiamo fatto una cosa bellissima, siamo andati sotto l'ambasciata, è stato molto forte vedere che dall'ambasciata facevano un filmino a questi tre compagni, che erano un padre, Héctor, il sobreviviente, Héctor, se me quema la voz perché fue algo fuerte, e un compagno di un'associazione dei diritti umani che sono venuti. E quando sono venuti qua in radio è stata una lezione, penso, per tutta Roma ascoltarli, però probabilmente se non avessero potuto venire qua non avrebbero trovato un'altra radio che li ospitasse, un posto che si prendeva la responsabilità di far dire delle parole così forti che denunciano, e soprattutto da questa parte del mondo, perché come dicevo prima noi dobbiamo riflettere molto, soprattutto noi che siamo sempre critici, sempre ad analizzare ogni aspetto, su questo forse ancora di più, perché quello che sta succedendo in Messico ora è anche una responsabilità degli Stati Uniti e dell'Occidente, questo non si deve scordare, perché le produzioni vengono da altri posti, girano il mondo e poi c'è chi le consuma, no? Quindi questo ci deve essere, per noi è una cosa che dobbiamo avere sempre presente, andando oltre il senso di colpa probabilmente, per riuscire poi invece a fare così questi legami internazionali, no? Che credo che siano i più importanti, che poi passino attraverso la musica. Ripeto, il testo di una canzone può fare tanto, può far riflettere, può dare gli spunti, no? Spesso più di un grande discorso di due ore, insomma. Quindi sono perfettamente d'accordo, mi piace che ci siamo trovati queste parole proprio casualmente, no? La cumbia e la voce dei senza voce, un po' quello che diciamo qua di questa radio, dove appunto sono passati, penso a quando vennero i parenti di Mumia Bouchamal, così come Léonard Peltier, insomma tutte quelle realtà che poi davanti al mondo di sopra, io preferisco stare nel mondo di sotto personalmente. Wow. Insomma, quindi veramente bello che esca questo così in maniera spontanea. E vogliamo suonare un'altra canzone? Abbiamo pure sistemato la tromba. Il futuro è il presente in Italia. La cumbia. Mo la cumbia vi conquista, che ve credete? Altro che lezioni di ballo, ci dovete arrivare da soli. Facciamo il contrario, vediamo. Viva il Mexico! Ok. Wake up. Esta canción se llama Wake Up. Está desafinada. Mete una canción. ¿Un'altra? No. Mette una canción. Está desafinada. Ah, ok. Allora, ne mettiamo una in diretta. Una di quelle che mi avevi chiesto. C'è desafinata. Ah, problema di corde qua. Sei scordata. Desafinato, ho imparato un'altra cosa, hai visto? Non è mai troppo tardi. E allora, quale ci proponi? Vai, dicelo tu, intanto. Allora, intanto appunto vi ricordo che qua siamo attrezzatissimi, perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, insomma una serie di strumenti. Chi conosce gli studi di Onda Rossa sa che stiamo facendo praticamente delle acrobazie da circo. Vai, presentacela. Questa canzone è un backup, è un mix di una canzone di Mano Chao, Mr. Bobby, con una canzone di noi, No Volverà. Son del Barrio. Sometimes I feel about reality, hey. Sometimes I feel so gone, so gone. Sometimes my dreams are all wild world. Sometimes I feel so lost. Hey, Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy. Es una emergencia. Hey, Bobby Marley. I pray about fraternity. Tonight I say, one day my dreams will be reality. Like Bobby said to me, a ver mi gente, hey Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Hey Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy. Allora, gli 87.9 di Radio Onda Rossa, alle 18.32 minuti, intanto appunto come avete sentito dalla corrispondenza fatta prima dell'Eschina del Sole, in cui ero impicciatissima e che non ho sentito, per fortuna il centro sociale Aurelio Marco è stato riaperto, tronca, grattate e rosica, e ci sarà un appuntamento, il primo col vice prefetto, vice non so che, in cui capiranno che cosa fare, che dire. Che dire, la resistenza paga, no? Idranti, riportateveli a casa, anche perché l'acqua costa e voi ce la tirate addosso così, come se avanzasse in questo mondo. Mi viene da pensare alla Palestina subito, io, acqua, Gaza, che stanno senza acqua, mentre Israele va in giro a vendere le macchine per darci l'acqua frizzante. Pure lì sarebbe da aprire un capitolo. E allora, quando sono le 18.33 minuti, Angel, che fai? Ce la regalate un'altra canzone? Abbiamo riaffinato la chitarra. Sì, sì, sì. Sì, adesso sta ok, allora abbiate un attimo di pazienza in cui rimettiamo tutto al loro posto, ma delle dirette così, ma chi ve le dà? Allora, questo va qui. Questa canzone si chiama Il Viento, l'ho fatto per la sorella di mia mamma che ce l'aveva l' Alzheimer. Questo si chiama Il Viento. Raga, 1, 2, 3, 4. El viento se va, el sol se mete, la luna brillará. Si me faltara aire para respirar, el viento viene, el viento se va. ¿A dónde va? ¿Dónde va? tiene, el viento se va. Rita amanece para despertar, y a su alma siempre el brillo lleva ya. El viento viene, el viento se va. ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? No woman, no cry, no. Everything that's on the people white, yeah. No woman, no cry. Everything is gonna be alright. Oh, no woman, no cry. Everything is gonna be alright. Ooh, no woman, no cry. Everything is gonna be alright. El viento viene, el viento se va. El sol se mete, la luna brillará. Si me faltara aire para respirar. El viento se va. ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? Más allá del sol. Insomma, non si sarà sentito sicuramente come, non lo so, come una filarmonica, però ecco, stiamo facendo una cosa bellissima, credo, secondo me. Allora, adesso aspettate un attimo che risistemo i microfoni, poi siccome io sono alta, come sapete, il mio 1,90 m, ho quest'asta che collassa sempre e hanno dovuto mettere questi cosetti di plastica. Ok, eccoci qua di nuovo, vi riapro i microfoni pure a voi solo dopo averli resi umani, ecco qua. Allora, grande Suon del Barrio, applauso, non so veramente come ringraziarvi. No, insomma, una sorpresa, perché poi... Sì, una sorpresa, perché poi appunto io e lui siamo entrati in contatto tipo nelle ultime 24 ore, ci siamo... Così è tutto successo, però questo è il potere della cumbia, giusto? Mi sembra il minimo, creare relazioni, che sono quelle da cui poi si fanno le rivoluzioni. Sì, però qui c'è un microfono, siamo in una radio, serve il microfono. No, vai, Kez, Kez, parola a Kez, no. Il profano, il profeta. Che viene da Quetzalcoatl Carvajal Pérez, ese es mi nombre. Però vabbè, continuiamo avanti, no, ragazzi? Ma io penso che la prossima anche la potete suonare da casa. È molto, molto semplice. Prendete qualcosa, tipo un cencerro. Dobbiamo provare a fare questo tipo di suono. Sentitelo bene. Sentimento di cumbia. Lo possono anche fare tutti, bambini, ragazzi, la gente grande. Porta tua mamma anche per farlo. Tu padre, grandi, anche bambini, tutti lo possono fare, bambini, donne. Non è obsceno, è una vera, è un vero sentimento. Pure i dottori, è un vero sentimento, no? È qualcosa di profonda. La cumbia c'ha un sentimento così di libertà, c'ha un sentimento di ribellia, c'ha un sentimento soprattutto di amore. Ecco. Un amore profondo per la vita, per le cose, per le esperienze, per lo che va succedendo. Vai, te prendo, che vuoi, maracas, guiro o tamburi? Cioè, c'è un baule pieno di... un baule pieno di percussioni. E Kez però si è scordato un amore grande per la musica, giusto, Kez? Come si chiama questo? Dottore? Un amore grande per la musica, certo. Ecco, qui tra un rumorino e un altro. No, poi quelli che sono semi, bucce di semi di? Si chiamano ayoyotes. Ayoyotes, escúchenlos. Ma pure se stai pulizzante pure. Perfetto. Esatto, però perché tu non hai mai visto gli strumenti nostri, guarda che noi pure abbiamo certi che si riempiono di campane, sì, sa? È inutile che fai lo splendido. No, scherzo. Dai, dai. No, ma che suono? Io già chiacchiero una cifra, ci manca che suono. Dico pure spropositi. Allora, sono del barrio, io voglio sapere quando possiamo comprare un CD, quando organizziamo il prossimo concerto per Radio Onda Rossa. No, scherzo. No, sì, intanto sì, possiamo farlo, dai, possiamo subito. Farlo. Per esempio, no, però cominciamo parlando del tuo CD, a parlare del tuo CD che appunto sarà pronto. Arita, in questo momento si sta facendo il mix. Vabbè, tempi messicani. Io lo so il come sono mexicani. Ahorita ahorita no, wey no, è l'ahorita wey ahorita sì, wey sì, ah. Sì. E allora ahorita wey se tra 5 no, ore tra 5 minuti o tra 5 giorni allora, sì. Ciao. Sono 2 anni che dico che no. Lo che è il single in 2 mesi sta listo perché ci okay. Sta grabando una collaborazione Big Sis di Houston che è un MC grosso della scena hip hop. Okay. Questo ragazzo sta facendo una collaborazione con me e ci stanno un altro artista también, sta Manic B de San Cristóbal che sta facendo una collaborazione in una canzone che si chiama Reguito de Guerra. Sta Feo Feo Records de Mérida che arriva in 10 giorni per qua. Ci stanno tante persone che stanno fando la collaborazione con me per questo materiale e dopo en Monterrey, en un estudio con Tony Paz del grupo Bambú, que es un grande, un grosso de la música reggae. Este ragazzo se encarga de hacer toda el mix. En más o menos en 2 meses, cheló el EP, donde se está Cumbia Reggae Suena, donde está Grito de Guerra. Okay. Ver el disco que se con todo el instrumento en vivo, porque este es più es digital, aunque con instrumento. Ah, ok, però anche chiaro che grosso, poi grosso che esse queste ci vuole manca, più tempo, sì, insomma, sì, sì, quello sì. Che ci dicevi prima, insomma, riuscire a mettere insieme a farli incontrare in qualche punto certo. Del mondo. Però se puoi trovare, lo puoi cercare in Bandcamp okay, come abbiamo detto prima. Esatto. E così intanto appassionarvi così che quando c'è il concerto già le sapete tutte a memoria per esempio no? certo. Per esempio no? Da più gusto. Allora io direi che possiamo chiudere dopo questa oretta e un quarto no? Ci siamo divertiti per bene, una bellissima sorpresa. Io non so come ringraziarvi intanto di venire e approfittare perché ve lo dico, imparate anche che poi quando il disco è pronto se io mi scordo tu mi telefoni perché sennò io qua impazzisco, cioè nel senso che questa radio è molto così, vive di relazioni, quindi una volta che la relazione è installata non ci deve essere paura anche a dire oh yeah, ti ricordi? Te mando il disco perché è una ricchezza per tutti. Grazie a voi che siete venuti a suonare, che vi siete portati mitici strumenti elettrici pensando che qui fosse così il progresso, invece siamo un po' molto acustici, ecco. No, però è bellissimo perché così è stato veramente acustico. Però c'è sempre un microfono. L'unica cosa l'erba, no, scherzo. Però ecco, siamo così, una piccola grande radio. Grandiosi, grazie per ospitarci, ragazzi. Grazie a tutti questi ascoltatori, grazie veramente. Avvicinatevi alla pagina di Facebook, lì abbiamo tutte le date per poi vederci, per suonare insieme, per avere questa bellissima opportunità di stare in cumbia. Grazie. Un ringraziamento a Angel, Kez, Andrea, che noi siamo tutti di Capena, tra l'altro, Marta, grande Capena, e alla mia famiglia, alla mia ragazza, a tutti, insomma, un ringraziamento da qui da Radio Onda Rossa, a tutte le famiglie, a tutte le famiglie di tutti. No, buon Natale. Buona Pasqua. Buon Natale. No, vabbè, buon comunque Natale, andiamo avanti. Grazie, saluto importante. Perché è davvero un bel progetto e tra l'altro non l'ho mai suonato questo tipo di musica, quindi mi potrà dare anche dei sbocchi. Parola Andrea, se vuoi parlare. No, vabbè. Abbiamo detto un po' tutto, diciamo. Ok, io veramente non so come ringraziarvi per essere venuti qua a suonare. Sì. E allora, io adesso metterei, siccome me l'hanno chiesto all'inizio della trasmissione, qualcuno diceva, papà, vado a casa, lo immagino che è andato a casa, ha fatto la cena, ha fatto la doccia, e quindi adesso sta di nuovo sentendo Radio Onda Rossa. Allora metto così, una cumbia della Delio Valdés, che spesso ci spingiamo da questa da queste frequenze, insomma, ci fa compagnia alla Schiena del Sol. Continuando a ringraziarvi, vi saluto come sempre con un saluto particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà. Lasciamo ciao. Mandare un saluto a mia moglie, per come favore. No, certo, a mia moglie e tutta la famiglia, grazie también a tutta la famiglia, a mio cugino, a Sara. Y también quiero enviar un saludo especial para el hostal o para el albergo Roma City, para todos los amigos de la. Y gracias a ti por todo el tiempo, por este espacio y ci vediamo con el disco. Ci vediamo presto. Forza grande. Ciao e allora buon ascolto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo, para que hoy regreses llorando. ¿Quién se burló de tus sentimientos? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto. Ahora podrás valorar la vida y corregir tu comportamiento. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Recién sabrás cómo duele el alma, cómo es el peor de los sufrimientos. Una sola vez perdono yo, y aunque me ruegues de rodillas, no, ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no, si me estoy muriendo por tu amor. Ya no, ya no, por Dios que no. Ya no vuelvo contigo, ya no, me estoy muriendo por tu amor. Ya no, por Dios, pero, pero. Contigo no vuelvo, no vuelvo, no. Ya no, ya no, por Dios que no. Aunque estoy muriéndome por tu amor. Ya no, por Dios que no. Contigo no vuelvo, no vuelvo, no. Ya no, ya no, por Dios que no. Aunque estoy muriéndome por. Ya no.